senti, come mi cupi. Dio, se ti ascolto bene. Gappa, gappa, gappa di notte. Col mobi consolo, Ma sei a posto? Positivo, ma Torello me l'ho messo a posto, l'ho ritirato oggi. Hai visto che con la calma e la pazienza si rimedia tutto. Gappa, gappa. Però sto uscendo col professore. Piano piano, ti sentiamo meglio. Domenico, scusa un attimino, come lo riceve a Franco? Considerando che lui è più alto di me.